1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Siamo qui alle 7:14 minuti, eccoci pronti a leggere i giornali con voi, cari ascoltatori. Vi ricordo che oggi torneremo sulla vicenda del finanziamento pubblico ai partiti con il Premier Letta, che ieri ha ribadito, e lo vedremo tra poco sui giornali, sono pronto al decreto legge, ci sono 150 emendamenti per tentare di affossare, diciamo chiaramente, questa legge che vuole cambiare il finanziamento pubblico ai partiti. E il Premier ha detto su questi temi, che per esempio il Movimento 5 Stelle ha preso tanti voti, se non riusciamo a fare una legge su questo sono pronto al decreto legge, ma il fuoco di fila di emendamenti chiaramente è lì che parla chiaro. Si cerca di fare melina e rimandare tutto in autunno, e di questo parleremo alle 8:15. Tra l'altro oggi avremo anche un rappresentante delle 11 sigle sindacali dei dipendenti della Camera. Il tema gli stipendi ai dipendenti della Camera sarà con noi alle 8:45, il rappresentante del sindacato dei consiglieri parlamentari. Questo più avanti, ora andiamo appunto a leggere i quotidiani che trovate in edicola. È martedì 23 luglio e i titoli dei quotidiani di prima pagina oggi sono davvero diversificati, non c'è una notizia che tiene banco, ognuno dunque fa la propria scelta. Il Sole 24 Ore apre così: debiti della pubblica amministrazione trasferiti agli enti locali 15,7 miliardi, ma alle imprese finora sono arrivati meno di 5 miliardi. Per il Corriere della Sera c'è un'intervista al primo ministro del Kazakistan: Alma in Italia possibile. La moglie del dissidente, le condizioni del governo kazako per riportarla in Italia. Per Repubblica lo stallo politico, il PD no ai diktat sull'omofobia. Mentre il Messaggero: intesa sull'IMU, così si cambia, vertice tecnico al Tesoro. La Stampa apre sul Papa, l'appello del Papa per i giovani. E anche il Secolo XIX, il Papa con la valigia. Libero: altro che abolire l'IMU, qui ce la raddoppiano, la trappola del catasto. Il Giornale invece: la guerra delle sigarette, la tassa sulla sigaretta elettronica. Per l'Unità, Bonino riapre il caso kazako. Avvenire segue ovviamente il viaggio del Papa a Rio in Brasile. Generazione preziosa, momenti di caos a Rio, l'auto del Papa bloccata tra la folla. Il Fatto Quotidiano mette invece in prima pagina una notizia che riguarda la Banca delle Marche. Banche in sofferenza, scoppia il caso Marche. Secondo il Fatto Quotidiano, vedremo la notizia, si rischia un nuovo caso Monte Paschi Siena. Mentre il Manifesto mette in prima pagina lo sciopero dei medici di ieri, codice rosso, questo è il titolo. Allora, come detto, noi parleremo del finanziamento pubblico ai partiti, torneremo su questo tema. Perché? Perché il 31 luglio intanto scade questa data, l'abbiamo detto varie volte, tutto in autunno si fa, ma il 31 luglio invece la tranche da 91 milioni di euro i partiti se la papperanno tutta e se la divideranno. Come sapete, il Movimento 5 Stelle è l'unico partito che invece non prenderà questi soldi. Avremo ospite, tra l'altro, un senatore del Movimento 5 Stelle, che è il tesoriere del partito al Senato. Avremo il senatore di tesoriere di SEL a parlare con noi alle 8:15. Ieri ha parlato Enrico Letta. Fondi ai partiti, Letta ribadisce, pronto al decreto legge, così a pagina 15 del Sole 24 Ore. Emilia Patta racconta che il Premier dice: se Grillo ha preso tutti i voti che ha preso è anche perché non si è stati capaci di intervenire sul finanziamento pubblico. Se i partiti non capiscono l'importanza di questo punto, confermano il definitivo distacco della politica dai cittadini. Sono passati 20 giorni dal decreto varato in Consiglio dei Ministri che abolisce il finanziamento pubblico diretto ai partiti, e Enrico Letta non ha mutato il suo convincimento, scrive il Sole. Per questo, a fronte dei 150 emendamenti presentati in ordine sparso alla Commissione, il ministro per le riforme Quagliariello ieri ha riunito i relatori del provvedimento e il presidente della Commissione che sta seguendo la vicenda. Il problema è che non si può tergiversare, ha detto il ministro Quagliariello. Siamo disponibili al confronto, ma non per andare alle calende greche. In realtà, cari ascoltatori, così succederà o si tenterà di fare melina, buttare nelle sabbie mobili questo provvedimento. Soldi ai partiti, Letta in trincea, così titola un'intera pagina il Corriere della Sera, pagina 11, Alessandro Trocino, non si facciano passi indietro su questa vicenda, il sistema dei partiti si gioca la sua credibilità. Questo l'appello ieri di Enrico Letta. Oggi, d'altronde, in commissione comincia l'esame dei 150 emendamenti presentati da tutte le parti politiche per arrivare in aula il 26 luglio, cioè tra 3 giorni, come deciso dalla conferenza dei capigruppo. Davvero il tempo è molto, molto stretto. Sarà anche questo il motivo per cui, come scrive sempre sulla pagina 11 del Corriere Tommaso Labate, i numeri della politica fanno registrare un crollo degli iscritti ai partiti? Sono dimezzati in 60 anni, fa sapere l'abate. Cosa penseremmo di una città che nel 55, a 10 anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, accoglie 4 milioni e passa d'abitanti, che invece adesso, quando nel cielo non ci sono aerei che bombardano, né in strada eserciti che sparano, somma un numero di residenti che supera a stento i 2 milioni? Penseremmo a un'epidemia di peste come quella del 600, oppure a un terremoto come quello del 1908 che distrusse Messina e Reggio? Nulla di tutto questo. La città si chiama Partitopoli, la città degli iscritti ai partiti che sono scappati, prima che dalle urne, da circoli e sezioni. Nel 1955, quando la popolazione italiana sfiorava appena i 50 milioni di abitanti, gli iscritti alle forze politiche erano 4.247.447, con un meccanismo di certificazione tale che l'Istituto Cattaneo ha potuto censire financo la singola unità. 60 anni dopo, e siamo agli ultimi dati disponibili, il crollo è evidente. Nel 2012 il Partito Democratico ha messo insieme 500.000 di iscritti, praticamente la metà di quello che i partiti che gli hanno dato vita, DS e Margherita, assommavano nel 2007. Un partito del 25% che ha 200.000 iscritti in meno di quanti PSI e PSDI, che di voti ne avevano forse meno della metà, ne mettevano insieme nel 1966. Il PDL invece ferma la cifra del 2011, dell'ultimo tesseramento, in cui i berlusconiani certificarono l'iscrizione di 1.139.192 italiani alla creatura nata dal celeberrimo predellino di Piazza San Babile. Insomma, un'emorragia di persone, di iscritti ai partiti. Sarà un caso? Anche per il Messaggero, pagina 6, finanziamento, l'out-out del governo ai partiti. Fate presto. Sì, faranno presto a tentare di insabbiare tutto. A proposito di case e di immobili, sapete che uno dei temi che spesso viene evidenziato è quello della vendita del patrimonio pubblico, degli immobili del patrimonio pubblico. E beh, pensate che oggi Libero scrive un dato che va in controtendenza. Altro che vendere il patrimonio pubblico. Pagina 4 di Libero: invece di vendere case, lo Stato ne compra altre. Nel 2012 i beni immobili di proprietà pubblica diretta sono passati da un valore di 57,1 a un valore di 58,2 miliardi di euro, quindi con un più 1,2. La maglia nera, cioè il maggior numero di acquisti, è più 410 milioni a Venezia. Franco Bechis è il vice direttore di Libero e scrive: questo fanno con i nostri soldi. Solo 14 province hanno fatto la dieta. La più virtuosa è Bologna, che ha ridotto il proprio patrimonio immobiliare di 181,4 milioni di euro. Ma, scrive Bechis, per studiare le hanno studiate davvero tutte. In ogni studio che si rispettasse da 2 anni a questa parte, il mattone di Stato è sempre stato al centro dei piani di sistemazione delle finanze e del debito pubblico. Chi proponeva la vendita secca a privati dei palazzi pubblici, chi insisteva sulle cartolarizzazioni, chi invece studiava fondi immobiliari attraverso cui convertire i titoli di Stato. Risultato: in mezzo a questo gran parlare, il governo centrale e le sue strutture periferiche, invece di vendere, hanno acquistato. Provincia per provincia i metri quadri statali si sono allargati, vendendo sì, ma comprando di più di quanto si venda, così che alla fine lo Stato ha quasi 1,2 miliardi di euro di mattoni in mattoni più di prima. Lo rivelano il conto del patrimonio dello Stato 2012 appena inviato in Parlamento dal ministro dell'economia Saccomanni. È da lì che si scopre che, nonostante le mille parole sciorinate dai tecnici durante il governo Monti, i beni immobili di proprietà diretta dello Stato sono passati da 57,1 a 58,27 miliardi di euro. Un balzo in avanti sorprendente, che peraltro è stato la regola in gran parte del territorio italiano. Infatti in ben 79 province è cresciuto il patrimonio immobiliare dello Stato. E poi c'è tutto sciorinato l'elenco provincia per provincia. Ma come? Ma come? Si dice deve vendere lo Stato gli immobili, invece che fa con i nostri soldi? Li compra. A proposito di case, prima della pubblicità, c'è una casa in particolare che fa discutere. Tutti i giornali mettono la notizia, Libero fa addirittura una pagina con richiami in prima pagina, l'affitto della villa di Grillo. Sapete quella villa dove, dopo le elezioni, nella quale ha fatto il pieno di voti, si è vestito in maniera come un alieno, tutto bardato, si è fatto riprendere dalla TV, a Marina di Bibbona, sulla costa degli Etruschi in Toscana. Ebbene, in quella villa, a due passi dal mare, è in affitto. Cari italiani, se volete, potete andare lì in vacanza per la modica cifra di, è vero che ospita 16 persone, per la modica di 14.000 euro a settimana, la dimora al mare in Toscana di Beppe Grillo è in affitto. L'agenzia chiede 2.000 euro in contanti di cauzione, c'è una tassa da 30 euro da portare per ogni animale, se portate gli animali. La location è Villa Corallina, una costruzione del 1920, il progetto di restauro operato dai proprietari e l'architetto Ponte di Genova ha rivisto il ripristino totale originario dell'edificio. C'è una piscina inserita in una zona ben precisa adiacente alla villa, ci sono i custodi e l'agenzia la mette in vendita e in affitto. 14.000 euro a settimana per la dimora al mare in Toscana di Beppe Grillo. E così ci sono anche le foto su Libero di come è arredata la casa, la cucina, il terrazzo. Beh, bella, per dire, se volete, 14.000 euro a settimana, poi dite sono stato in vacanza nella villa di Beppe Grillo. Se vi va, è così. Ora andiamo in pubblicità. Ed ecco Alessandro Milan che legge i giornali come nessuno al mondo sa leggerli. Allora, alle 7:31 minuti, vogliamo parlare di politica, ma prima parliamo dell'economia, le notizie, anche perché la politica per il secondo o terzo giorno è davvero abbastanza incomprensibile, cioè slegata totalmente dalla realtà di quello che vivono i cittadini. Lo dico senza ombra e senza timore di essere smentito, cioè il dibattito sulla legge sull'omofobia, che può essere un tema importante, certamente anche un tema importante, ma la gente non capisce perché su questa legge sull'omofobia si stia giocando questo gioco di no, blocchiamola, rinviamola, fermiamoci, i temi etici, insomma non si capisce davvero nulla, e non si capisce perché questa debba essere la notizia che blocca la politica da alcuni giorni, quando invece ci sono questioni ben più importanti. Le questioni che riguardano tutti gli italiani, le questioni dell'economia, la questione della situazione economica. Allora, la notizia con cui apre il Sole 24 Ore, che riguarda tutti i fornitori della pubblica amministrazione, è il dato che ieri ha dato il Ministero dell'Economia riguardo ai fondi, la tranche di soldi che sono stati dati dagli enti dal ministro. A disposizione 15,7 miliardi, questa è la cifra che è già stata trasferita agli enti locali dallo Stato per pagare i fornitori della pubblica amministrazione. I debiti della pubblica amministrazione in confronto ai fornitori sono ben più alti, si parla di 90 miliardi, però insomma questi primi 40 miliardi sono stati sbloccati, 15,7 sono stati consegnati. Ma racconta Il Sole a pagina 3 con Eugenio Bruno e Carmine Fotina che tre quarti delle risorse stanziate per i pagamenti alla pubblica amministrazione sono state erogate alle amministrazioni competenti, ma in realtà solo una piccola parte di questa somma è già stata trasferita ai creditori. Il ministro dell'economia Saccomanni ha avviato un'operazione di trasparenza sull'attuazione del decreto sblocca pagamenti entrato in vigore il 9 aprile scorso. 20 miliardi previsti quest'anno, ne sono stati attivati complessivamente 15,7, ma appunto di questi 15,7 sono solo 5 circa quelli che sono stati poi utilizzati per pagare i fornitori. Però il Sole 24 Ore sempre fa sapere che, e siamo a pagina 2, entro settembre la fase 2 dovrebbe prevedere altri 10 miliardi aggiuntivi, per la verità entro fine anno, quindi ai 15,7 altri 10, si arriverebbe a 25,7 miliardi dati entro la fine dell'anno. Il piano per la fase 2, titolo al Sole a pagina 2, 10 miliardi aggiuntivi entro fine anno. C'è anche però l'ipotesi di calcolare l'intero stock a 45, forse 55 miliardi e pagare tutto nel 2013. Questa sarebbe certamente una buona notizia. Mentre l'altro tormentone dell'estate che ci accompagnerà tutta l'estate, la questione dell'IMU, beh, su questo, mentre il Messaggero è più ottimista e dice trovato un accordo al vertice di maggioranza, il Sole 24 Ore è più pessimista. Per l'IMU intesa solo sul metodo. Ieri, racconta Marco Rogali a pagina 5, trovare un'intesa all'inizio di agosto, arrivare alla stesura della riforma subito dopo la pausa estiva, questa è la tabella di marcia per giungere al riassetto della tassazione sugli immobili superando o rimodulando l'IMU. Questo è stato di fatto tracciato ieri nella riunione tecnica della cabina di regia che si è svolta al Ministero dell'Economia. C'erano presenti i vari partiti, Colaninno per il PD, Brunetta per il PDL, Lanzillotta per Scelta Civica, Pisicchio per il gruppo misto, Hans Berger per il gruppo Autonomie, ma come dire, non c'è l'accordo. Racconta appunto il Sole, non sembra matura per esempio la scelta tra il modello service tax, cioè la tassa unica in cui inglobare anche la TARES ma con garanzie specifiche per gli inquilini, la franchigia, ampliamento fino a 600 euro delle detrazioni per la prima abitazione, la rimodulazione dell'imposta tenendo conto, in attesa che vada a regime, la riforma del catasto, della metratura dell'immobile con eventuale raccordo con l'ISEE. Insomma, i partiti vanno avanti, c'è un'intesa sul metodo, ma in realtà non c'è un'intesa di fondo. Sarà il tormentone dell'estate. Volete l'altro? Quello che ci portiamo da mesi? L'IVA. L'aumento dell'IVA che è stato rinviato di 3 mesi. Ci sarà questo aumento? Verrà scongiurato? Oggi il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, intervistato dal Corriere della Sera, pagina 8, da Antonella Baccaro, ribadisce niente trucchi, il ritocco dell'IVA va cancellato. Dice Sangalli, la via della riduzione delle tasse come prima risposta a una recessione che continua a picchiare duro e colpisce i settori produttivi e tutte le aree del paese mi sembra obbligata, non è questione di rinvii. Bisogna trovare le risorse per cancellare definitivamente l'aumento dell'IVA dal 21 al 22% attraverso una rimodulazione delle aliquote ridotte, come è stato fatto di recente su prodotti venduti nei distributori automatici. E questa idea ci vede fermamente contrari. Prima di tutto perché avremmo comunque un aumento netto dell'imposizione. Questo sarebbe un'ulteriore, forse definitiva, mazzata sui consumi che valgono l'80% del PIL. E poi questa eventuale misura colpirebbe soprattutto le fasce più deboli e gli incapienti. Insomma, dice Sangalli, non vediamo segnali di ripresa nel 2013. Questi tormentoni, in tutto questo il giornale Il Fatto Quotidiano oggi fa un focus e mette un titolo di prima pagina a un qualcosa che rischia di essere un po' inquietante. Viene dipinto dal Fatto Quotidiano come il nuovo caso possibile Monte Paschi Siena. Il titolo di prima pagina del Fatto è Banche in sofferenza, scoppia il caso Marche, ci sono pagina 2 e 3. A pagina 2 Giorgio Meletti racconta, sotto il titolo Nelle Marche sta scoppiando un altro caso Monte Paschi, uno degli imprenditori presenti parla di scena surreale, ci voleva Kafka. È successo giovedì scorso, il governatore delle Marche, Gianmario Spacca, ha convocato un centinaio di imprenditori più importanti della regione, ha chiesto loro di mettersi una mano sul cuore e una sul portafogli e tassarsi per salvare la Banca delle Marche. Accanto a Spacca c'era il presidente dell'istituto di credito, Rainer Masera, nominato appena il 9 luglio scorso su indicazione sussurrata, scrive il Fatto, della Banca d'Italia. Masera, una prestigiosa carriera alle spalle da Banca Italia all'IMI, ministro del bilancio del governo Dini, ha fatto coro con Spacca inneggiando alla marchigianità della banca, ma tutti hanno riconosciuto che i conti sono un disastro, l'ennesima storia di banche scassate e di politici locali che non vogliono perdere la presa. Solo che stavolta la Banca delle Marche è veramente scassatissima. Gli ispettori della Banca d'Italia, che dall'anno scorso stanno aprendo tutti i cassetti nella sede centrale di Iesi, non si decidono a chiudere la loro ispezione. Qualcuno paventa lo spettro del commissariamento a breve. I numeri d'altronde non perdonano, scrive il Fatto. A fine giugno la banca ha emesso un prestito obbligazionario subordinato Upper Tier 2, cioè un prestito a tasso di rischio così elevato che la cedola promessa è del 12,5%. Si tratta di 80 milioni che vanno trovati entro il 31 luglio per rientrare nei coefficienti patrimoniali minimi fissati dalla vigilanza bancaria. Finora 20 milioni li hanno versati le fondazioni di Iesi e di Pesaro, che insieme a quella di Macerata controllano il 55% della banca, fondazioni squattrinatissime, modello Siena, con in più la Macerata in rotta con le altre due, che le hanno respinto la proposta di un'azione di responsabilità contro gli amministratori. Mancano insomma all'appello 60 milioni da trovare entro il 31 luglio. Beh, il caso, scrive il Fatto, rischia davvero di esplodere. Banca delle Marche, così messo in prima pagina, con anche questo racconto di una riunione in cui il governatore e il presidente della banca, Masera, hanno chiesto agli imprenditori di mettere una mano al portafogli per salvare la marchigianità della banca. Sarà un nuovo caso Montepaschi, così scrive, c'è il sospetto, il Fatto Quotidiano. Beh, il 31 luglio è alle porte, non resta che attendere. In tutto questo la politica, appunto, che fa? Io ho provato, la leggo per voi, per dovere, sono pagato per questo. La questione della legge sull'omofobia, una legge importante sulla quale, secondo il Manifesto, rischia di affossare sotto una valanga di emendamenti ostruzionistici del PDL. Quasi 400 la legge sull'omofobia, la legge contro i reati di omofobia e transfobia, che è una legge, come racconta Repubblica a pagina 2, che prevede un anno e mezzo di carcere per chi diffonde idee razziste e inciti ad atti discriminatori motivati dall'identità sessuale della vittima. E si prevedono da 6 mesi a 4 anni per chi incita a commettere atti o commetta violenza motivate dall'identità sessuale. Questo è il testo base 2. Ora è stato presentato un nuovo testo, un emendamento che cancella i testi precedenti, include nella legge Mancino i reati omofobici, ma non prevede l'applicazione delle aggravanti. Insomma, si tenta di trovare un accordo e va bene. Questo, come qualsiasi iter di legge, è complicato. C'è chi si oppone, c'è chi propone emendamenti, e va bene. Ma non si capisce perché da 3 giorni la politica sia bloccata su questo. Addirittura tutti i retroscena di Repubblica sono dedicati, quelli di prima pagina, no? Quelli importanti per capire qual è il termometro di tenuta politica di un governo, sono dedicati a questo tema. Eccolo qui, per esempio, Goffredo De Marchis, il patto segreto tra Epifani e Alfano, prima pagina di Repubblica, e continua a pagina 3. Questa legge va approvata subito. C'è voluto un colloquio tra Letta ed Epifani per sbloccare la legge sull'omofobia, mettendo al riparo la maggioranza da un altro problema. E poi c'è tutto il resoconto della politica. Sarà che, abbinato a questa situazione in cui, guardate, titolo di pagina 2 del Secolo XIX, è stallo tra PD e PDL, la maggioranza non decide più nulla, che uno in questo titolo dice c'è una parolina di troppo, più, perché cosa hanno deciso? Non decide perché più nulla. Cosa hanno deciso finora? Comunque, è stallo tra PD e PDL, la maggioranza non decide più nulla. Cioè, in questa situazione in cui la gente vede che il paese lentamente non si risolleva dalla crisi economica, non ci sono soluzioni, dell'IMU ne parliamo tutti i giorni ma non c'è una benedetta soluzione, dell'IVA ne parliamo tutti i giorni e quello che al massimo hanno fatto è rinviare di 3 mesi e poi in autunno chissà che sarà. In tutta questa situazione ecco che il ministro Delrio, ministro degli affari regionali, se ne esce con la frase riferita a Casaleggio, quando Casaleggio in un'intervista ha detto: oh, qui si prevede uno shock economico, per cui o cambia la rappresentanza democratica da quella attuale o si temono rivolte e scontri. È il ministro Delrio che dice: di fatto non ha tutti i torti Casaleggio, ministro della Repubblica Italiana. Casaleggio ha detto una cosa molto vera: siamo in una situazione al limite della rabbia. Così il ministro Delrio: lo sento quando vado in giro, siamo al limite della rabbia. Intervenire su IMU e IVA non sposta nemmeno uno 0, del PIL. Sta di fatto che poi, questo è il titolo del Fatto Quotidiano, per esempio: Delrio, ha ragione Casaleggio, in Italia c'è aria di rivolta. Oppure il Corriere della Sera, una pagina: Delrio con Casaleggio, situazione difficile, al limite della rabbia. La sorpresa, scrive il Corriere, arriva da Graziano Delrio, ministro renziano degli affari regionali, che rompe il muro del PD sull'ultima uscita di Casaleggio e che dice: siamo al limite della rabbia. Bersani invece, ieri alla Festa dell'Unità a Roma, dice che la situazione sia al limite della rabbia, lo dico anch'io, non vorrei però che Casaleggio ci offrisse il suicidio di massa. Questo ha detto Pierluigi Bersani. Sta di fatto che, insomma, questo è una frase rilanciata dal ministro agli affari regionali. Ma di che parla poi soprattutto il PD? Il congresso. Ah, il congresso. Rinviare o no il congresso? Rinviare il congresso o farlo? E oggi decideranno: espellere Crocetta dal Partito Democratico perché, oltre a far parte del Partito Democratico, porta avanti le sue liste il megafono, e quindi questo è compatibile, la presenza di Crocetta che porta avanti la sua lista il megafono, con le regole del Partito Democratico. Oggi decideranno se espellere Crocetta, e così come decideranno forse qualche giorno se rinviare o no il congresso. Capite che, insomma, è uno di quei temi che io vi vedo, lo so, siete lì nei vostri abitacoli, e questa, prima di arrivare al lavoro, è la preoccupazione principe che avete, così come le vostre colazioni, quando vi guardate negli occhi, in famiglia, vi guardate, guardate lo spaesamento del vostro partner, dei vostri figli, e voi pensate, ma vostro figlio starà pensando: ma il PD lo rinvierà questo congresso oppure no? Alessandro Milan, il panettiere dell'informazione. Eccolo lì allora, Rosario Crocetta, che viene anche intervistato da Emanuele Lauria su Repubblica. I democratici vogliono farmi fuori, sono travolti dalla questione morale, io mi candido alla segreteria. Pagina 6 di Repubblica, il dramma o il dilemma: Crocetta è compatibile con la sua lista e il megafono con il PD oppure no? In tutto questo Silvio Berlusconi invece continua il suo silenzio, si avvicina il 30 luglio, anche se per la verità oggi Paola Di Caro sul Corriere della Sera fa sapere che ci sono forse nuovi calcoli sulla prescrizione che potrebbe così scattare il 14 o il 27 settembre. Alcuni complicati calcoli, complicatissimi conteggi rifatti dagli stessi giudici di Milano, comunicati alla Cassazione. In questo caso non ci sarebbe più bisogno di decidere in 24 ore, il 30 luglio, se cassare la sentenza, rinviarla o se accoglierla, perché secondo alcuni calcoli una parte dei reati per cui è stato condannato in appello Berlusconi scatterebbe come prescrizione il 1 agosto. Secondo altri calcoli, invece, il 14 o 27 settembre, in base a questa data, la Cassazione potrebbe decidere se deve decidere subito, il 30 luglio, entro un giorno, altrimenti scatta la prescrizione, oppure può prendere più tempo. Su questo, retroscena di Repubblica con Liana Milella, e siamo a pagina 7, Berlusconi vuole lo scontro finale, basta rinvii, la Cassazione decida il 30. Per la verità sono come al solito frasi attribuite, non pur virgolettate, ma non dichiarate pubblicamente. Secondo questa retroscena di Repubblica, Berlusconi, che ufficialmente non parla da giorni, non parla soprattutto del processo Mediaset, ai suoi avrebbe detto: se devono condannarmi, tanto vale che lo facciano subito, non ne posso più, è inutile prolungare questa farsa, tanto i giudici hanno già deciso tutto. Vabbè, questo è attribuito a Silvio Berlusconi. Chi invece è stato condannato, è una sentenza che oggi prende una o due pagine su ogni giornale, è la condanna in primo grado a Ottaviano Del Turco, ex governatore dell'Abruzzo, condannato per avere preso mazzette da oltre 6 milioni di euro dall'ex imprenditore della sanità Angelini, che si è dimostrato suo grande accusatore poi al processo. Primo grado, tutti fanno un'analisi del fatto certamente che questi 6 milioni non siano stati trovati, ma la condanna è arrivata e Del Turco fa interviste ovunque: Corriere, Repubblica, Messaggero, L'Unità, La Stampa. Non c'è giornale che non abbia intervista a Ottaviano Del Turco, nella quale lui ripete più o meno le stesse cose. Il nome più citato da lui è Enzo Tortora. Io come Tortora. Sul Corriere: non hanno trovato un euro sui miei conti, a me la stessa pena di Tortora. Così su Repubblica, qui parla anche di una situazione personale molto grave, dice Ottaviano Del Turco: ho un tumore da 3 mesi, da 2 mesi sono in chemioterapia, domani andrò a Roma a chiedere al professor Mandelli di darmi ancora 5 anni di vita per dimostrare la mia innocenza, riabilitare la giunta della regione d'Abruzzo che ho guidato. Sul Corriere della Sera parla anche di un tema che è quello della riforma della giustizia. Dobbiamo cominciare a separare le carriere. Il giudice che mi ha condannato era pubblico ministero fino a 3 anni fa. Mi ha inflitto la stessa pena che venne inflitta a Enzo Tortora. Questo accostamento con Tortora lo trovate ovunque. Sull'Unità: io come Tortora, mi hanno condannato senza prove. Sulla Stampa: un processo senza prove, mi sento come Enzo Tortora. Vabbè, come vedete i titoli sono anche tutti uguali. La cronaca è anche legata al Papa. Troverete tantissimi articoli e tante analisi su questo viaggio del Papa in Brasile. Certamente la cosa che ha colpito di più, beh, intanto è la mancanza di sicurezza. C'è questa foto della macchina del Papa letteralmente imbrigliata tra la folla di Rio de Janeiro. Bergoglio manda in tilt Rio, resta imbottigliato nel traffico. Questo per esempio a pagina 3 della Stampa. Arriva un elicottero a liberare tra virgolette il pontefice. Certamente dal punto di vista della sicurezza un qualcosa che ha colpito negativamente. Il Papa bloccato dalla folla, trovata anche, racconta il Corriere della Sera con Gianguido Vecchi a pagina 18, una sorta di bomba artigianale, o meglio, in realtà la polizia militare ha trovato un candelotto verde a basso potenziale quasi insignificante in un bagno del parcheggio del santuario dove il Papa si recherà domani per iniziare la sua giornata mondiale della gioventù, consacrando il viaggio e il pontificato alla Madonna. Comunque, dal punto di vista della sicurezza, certo, non molto, come ha colpito moltissimo l'immagine. Sapete che è un Papa che anche nei gesti sta certamente rivoluzionando, e tutti i giornali sono molto attenti a ogni singolo gesto del Papa. Quello che ha più colpito è il Papa che sale la scaletta dell'aereo che lo porta in Brasile portandosi la valigia. Il Papa con la valigia, questo è il titolo che trovate molto spesso citato. Ma vabbè, ma è chiaro, è ovvio, è scontato. Ieri già su Twitter molti mi dicevano: ah, quanti articoli troverai per scegliere, l'imbarazzo della scelta avrai per assegnare oggi il premio La Carta Costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali. Effettivamente, con tutte le vicende del Royal Baby, che dovremmo fare? Ebbene sì, allora dai, ne ho scelto uno, quello che all'interno degli sterminati articoli che ci raccontano come sia nato il maschio, l'erede al trono britannico, non il primo erede, il primo è Carlo, questo l'ho capito anch'io, il secondo deve essere William, che è il padre di quello nato ieri, il terzo è lui, e invece Harry passa in secondo piano, passa quarto. Comunque, l'articolo che vince il premio La Carta Costa, oggi è su Libero di Alessandra Menzani in prima pagina. Ma perché? Ma perché anche il tono, l'intervista a Carlo Rossella, sentite cosa scrive Alessandra Menzani. Ad eccezione di qualche chi se ne frega, qualche chi se ne frega, ma come qualche? Sì, comunque, ad eccezione di qualche chi se ne frega, il Royal Baby ha tenuto con il fiato sospeso il mondo intero, Italia compresa. Non tanto quanto l'elezione del nuovo Papa, ma poco ci manca! Poco ci manca, scrive Libero. Un osservatore speciale è stato Carlo Rossella. E qui parte una lunga intervista in cui Carlo Rossella dice: sì, ero preoccupato per il travaglio così lungo. Ve lo vedete, Carlo Rossella, preoccupato per il travaglio di Kate, perché gli inglesi hanno bisogno di un principino. La monarchia ora diventa più popolare. Sappiate che in Inghilterra anche i giovani con le creste arancioni amano i reali. Personalmente preferivo una femmina, come tutti i papà, dice Carlo Rossella, solo che non è tuo figlio. Comunque preferivo una femmina. Ci ho anche scommesso 50 sterline a Londra, peccato. E poi racconta: comunque ci sarà un'equipe di tate e a capo di queste tate ci sarà un'italiana, Antonella Fresolone. Beh, tra i qualche piccolo chi se ne frega, insomma, anche quello di Carmelo Lauricella in regia c'è, e anche il mio, e soprattutto l'invito a fare attenzione, cari amici di Libero, che la carta costa. Giornale radio. Ascoltate Alino Milan, l'unico giornalista che legge il presente, ricorda il passato, predice il futuro.